chiara, appunto, visto che in genere non si studia antologia nelle scuole, alcuni di questi concetti, di questi antropologi che vi ho presentato, saranno applicati nella parte empirica, altri concetti no, quindi è una scelta che dipende in parte da me, naturalmente in parte dal contesto, visto che il contesto della ricerca empirica è quello che adesso vi mostrerò. Già ieri vi avevo accennato al rapporto tra familiare e straniero, e l'antropologia gioca su questi livelli. Anzi, in genere l'antropologia, proprio come disciplina, nasce con lo scopo di rendere familiare lo straniero. Ecco, questo mi pare che non l'ho mai detto. Rendere familiare lo straniero, questo è inizialmente lo scopo dell'antropologia culturale. Ciò che è totalmente o parzialmente differente dal nostro modello di vita, dalle nostre trame, praticamente le nostre culture, l'antropologia cerca di rendercelo un po' più comprensibile, appunto un po' più familiare. Questo aspetto di rendere familiare lo straniero ha in genere questo problema che si presuppone che il familiare sia conosciuto. Si presuppone che il familiare, cioè la nostra cultura o le nostre culture, siano conosciute da chi partecipa a queste stesse culture. Normalmente così non è. Per cui, se è vero che la nascita, la storia dell'antropologia culturale è rendere familiare lo straniero, perché gli antropologi andavano in contesti totalmente differenti, abbiamo visto, andavano a Bali, andavano a Bregliato, in questi contesti altri, se la ricerca si dirige verso le nostre culture, verso la cultura occidentale, dobbiamo iniziare a fare un'operazione simmetrica, cioè rendere straniero o familiare. Questa è l'operazione che inizieremo oggi. Rendere straniero o familiare. Ciò che per noi, almeno apparentemente, è familiare, cioè non apparentemente, è familiare, nel senso che appartiene al nostro modo di vita, alle nostre credenze, ai nostri miti, alla nostra cultura, o alle nostre culture, per dirla meglio, in plurale, dell'antropologia, ecco, viceversa, dobbiamo apprendere a estraniare ciò che familiare. È un addestramento significativo, importante, quello di vedere la parola della dislocazione, no? Di apprendere a dislocarsi, perché se iniziate a dislocarvi, appunto, ciò che vi sembra familiare, comincerete o potrete cominciare a vederlo come straniero. Quindi vedete questa simmetria e questo gioco simmetrico, quindi ve lo riassumo in questo modo, rendere familiare lo straniero, la classica antropologia, parte ancora dell'attuale, e rendere straniero il familiare, ecco, in questo doppio gioco chi è l'antropologia culturale? Perché l'antropologia culturale è un transito costante tra familiare e straniero, laddove familiare e straniero stanno sia in un contesto appunto totalmente altro e sia in un contesto totalmente nostro. In questo modo, credo questa è la cosa più bella dell'antropologia, l'antropologia si fa riflessiva. Si fa riflessiva. Quindi non è solamente interpretativa, come mostrare nell'ultimo antropologo di Gerns, è anche riflessiva, cioè nel momento stesso in cui inizia a fare ricerca anche sull'altro, sul familiare o straniero che sia, l'antropologo, quindi soggettivizzo, non l'antropologia, soggettivizzo, l'antropologo o l'antropologo, questo è l'antropologo, si fa riflessivo, assume la sua propria soggettività come parte della ricerca. dire, assume la sua propria soggettività come parte della ricerca. Lo accennavo già ieri sulla questione dell'intervista e della dialogica. La riflessività è parte fondamentale della ricerca di un antropologo, è parte fondamentale. Non c'è ricerca senza collocarsi riflessivamente nel contesto. E direi meglio, nel caso che vedremo, nel dentro fuori, affrontando la comunicazione visuale, l'antropologo riflessivamente si colloca, si posiziona nel dentro fuori, tra il dentro e il fuori. In qualche modo a me piace dire che salta dentro la comunicazione visuale, la comunicazione metropolitana e fuori. E questo saltare tra il dentro e il fuori si costituisce il rapporto tra familiare e straniero. Questo saltare tra il dentro e il fuori si costituisce questo rapporto riflessivo tra il familiare e il straniero. Se seguite questo tipo di impostazione significa anche che alcuni elementi stranieri o alieni stanno anche dentro la soggettività dell'antropologo e immagino anche dentro la vostra soggettività. Capite? Si sottintende una cosa per me molto importante e significativa, che io, soggetto della soggetto della cultura occidentale europea, romana, ad esempio, non sono del tutto familiare con me stesso, capite? Non ho una totalità familiare con me stesso, certo io ho una coabitazione con me stesso, mi conosco, insomma. Più o meno mi conosco, ma assumo che in questa dimensione familiare io ho elementi stranieri, alieni, sconosciuti, a volte incomprensibili, anche nel mio interno. Capite? Quindi questa tensione, questa dialogica familiare-straniero non è solamente una dialogica che sta fuori, nel contesto della ricerca. Se affermo che stiamo in una dimensione riflessiva, il soggetto che fa ricerca assume questa dimensione familiare straniero anche dentro la sua propria soggettività. E questa è ancora più forte nella ricerca. Perché nel corso della ricerca io non conosco totalmente me stesso. Questa è la bellezza, se volete, della ricerca. Nella ricerca empirica alcuni aspetti, alcuni lati della mia soggettività mi si presentano a me sconosciuti, perché sennò non è la ricerca, se no io mi vado a leggere, a studiare quello che già conosco. Ma se la ricerca, quando è forte, quando è potente, entra dentro qualche cosa di sconosciuto che io ancora non conosco, su cui quindi devo fare ricerca, questa dimensione di tratti sconosciuti, ripeto, è una dimensione bella, appassionante, difficile della ricerca empirica, perché questi tratti non li trovo solamente fuori, ma li scopro a volte drammaticamente anche dentro me stesso. E allora l'allenamento, l'addestramento dell'antropologo è anche quello di esplicitare, di entrare dentro questi lati oscuri al proprio interno e affrontarli. Quindi la ricerca è anche un'occasione straordinaria per affrontare i lati oscuri che al proprio interno il ricercatore ha, nella consapevolezza che questi lati oscuri, diciamo così, in qualche modo non è che finiscono, capite? In quanto se io inizio domani o tra un mese a fare una nuova ricerca, mi si presenteranno altri lati oscuri, perché alcuni aspetti non familiari stanno non solamente, come dicevo prima, quando faccio le ricerche serie, nel mio fuori, ma stanno anche nel mio dentro, sempre. In questo senso la ricerca etnografica è anche una sfida. E per questo che ho sottolineato l'importanza di Malinowski. Malinowski che fa questo doppio scritto, no? Il diario e gli Argonauti. perché questa dimensione che Malinowski è nascosta, è un doppio trattato secondo una scissione pubblico-privato, la nuova antologia cerca di renderla trasparente in qualche modo, cerca di rendere trasparente questa transizione costante tra il noto, l'ignoto, lo sconosciuto e il familiare, gli aspetti esterni e in quelli interni. Questo è appunto l'aspetto riflessivo dell'antropologia culturale. L'antropologo riflette sullo straniero, riflette sul familiare e nello stesso tempo riflette su se stesso. Riflette sullo straniero, sul familiare e riflette su se stesso. Questa è la tensione continua, come per la tartaruga, e credo sia una metafora, è bellissima, questo aspetto appunto delle tartarughe che sono infinite come le interpretazioni sullo stesso rituale, potendo, così le tartarughe ce l'abbiamo anche dentro. No, siamo pieni di tartarughe che ogni tanto escono e cerchiamo di renderle trasparenti, renderle consapevoli alla nostra riflessività. D'altronde questo corso assume proprio lo straniero e il familiare in questa complessa transizione come parte costitutiva della dimensione monografica. È parte costitutiva, cioè il corso monografico è costituito in una parte apparentemente no, familiare, diciamo così, che è il fetichismo, più o meno, insomma, che affronteremo oggi, e una parte straniera che sono i coloro che affronteremo successivamente. Quindi questa due doppia dimensione, familiare e straniero, la affronteremo tra i coloro e vedremo come entrambi scivolano l'uno nell'altro. In entrambi i casi, familiare e straniero scivolano in una maniera particolare e complessa l'uno dentro l'altro. Per dare il senso di questa, diciamo così, introduzione teorica, io vi presento questa prima composizione che si chiama Metropoli Comunicazionale, che vi introdurrà sul concetto di feticismo, vedremo come. In quanto questa parte monografica del corso assume il feticismo visuale come parte costitutiva della metropoli comunicazionale. Quindi non, diciamo così, della cultura nel suo significato antropologico, anche più complesso che vi ho dato, o meglio, questi aspetti culturali, la cultura nel senso semiotico, per esempio, del termine, stanno dentro la metropoli comunicazionale, che adesso vi presenterò. La metropoli comunicazionale significa, a mio avviso naturalmente, che, i luoghi tradizionali, le divisioni spaziali, territoriali della modernità, sono state messe in discussione non solamente dalle nuove tecnologie digitali, ma qualcosa di più complesso che riguarda il modo in cui la comunicazione sta trasformando tutta una serie di indicatori che nell'era della società industriale, industrialista, erano chiarissimi. Allora, in questa prima composizione, vedete, io ho messo la vecchia metropolitana di Beijing insieme alla metropolitana di New York e di questa versione di Boston, anche avendo messo anche Roma, San Paolo. Allora, questa è una mappa della nostra esperienza quotidiana, nel senso che i miei livelli spaziali, la mia comunicazione spaziale, le mie zone spaziali, possono contemporaneamente relazionarsi a Beijing, a New York, a San Paolo, stando in qualsiasi posto. E qui ho messo questa transizione, e questa l'ho messa adesso, prima di iniziare la lezione. Allora qui vedete, io ho messo due indicatori specifici di quello che io intendo per familiare straniero, che in un altro senso l'ho scritto qua successivamente, poi torniamo all'altra immagine, aldeia e metropoli. Cioè dire, noi possiamo anche, la parte monografica che io presenterò, familiare o straniero, si focalizza in questa tensione tra aldeia e metropoli, laddove per aldeia si intende il villaggio indigeno, Gorora in questo caso. Quindi, se non conosciamo questa parola, aldeia portoghese è il modo in cui portoghese appunto si definisce il villaggio. Allora, tra aldeia e metropoli non c'è una opposizione binaria, come normalmente si dice. Tra aldeia e metropoli c'è esattamente questa relazione che stavo dicendo tra familiare e straniero. Senso che il familiare sta nella metropoli, così come lo straniero sta dentro la metropoli, e entrambi, il familiare e il straniero, stanno anche nell'aldeia. Torniamo all'immagine precedente. Allora, vedete, in questa mappatura in cui diverse sezioni delle metropoli coabitano in uno stesso spazio immateriale, anzi, secondo me, materiale e immateriale, no? Il dualismo materiale e immateriale, che noi eravamo abituati a definire questi concetti, attualmente si incontrano, no? Questo è un altro livello, secondo me, importante. Nell'attuale metropoli comunicazionale, materiale e immateriale sono uno un po' dentro l'altro, no? Sono incrociati, sono uno all'interno dell'altro. Allora, all'interno di questa visione io vi ho messo una prima immagine avanti. Buongiorno, tutto bene? No, capisci che ormai sei lungo nel bus, quindi sappiamo che sei lungo. Allora, ho messo due immagini che sono messo belle, per me anche minimamente significative. La prima, poi la vedremo dopo, è difficile, è un'opera d'arte, è una cosa, ma è anche una cosa persona che sta a Chicago, in una piazza di Chicago. L'artista è Kapoor, un disegnato, è un grande artista anglo-indiano che sta un po' ridefinendo il concetto dell'arte. È uno degli artisti che non casualmente è anglo-indiano, secondo me. Nel senso che proprio attraversando familiare straniero diverse culture, a volte si accende una capacità non di penetrare e di anticipare quello che sta per essere messo appunto in comunicazione. Quindi qui abbiamo un tratto significativo della nuova metropoli e abbiamo un'aldeia. Vedete, qui è una malocca, una capanna di un'aldeia sciavante, sciavante stanno vicino in coloro, che ha, vedete, questa forma classica con paglia, legno e bugoncina per far uscire il fuoco, eccetera, eccetera. Quindi, vedete, in questa composizione della metropoli comunicazionale, dove ho messo anche questa specie di soggetto, questo è il soggetto di nostra della metropoli comunicazionale, che transita, attraversa spazi differenti e non solo differenti all'interno di quello che noi diciamo metropoli, perché Virginia è metropoli, New York è metropoli, questo è Chicago, ma anche un'aldeia sciavante. Anche l'aldeia sciavante è inserita in questo circuito comunicazionale. Questa è la premessa che cerchiamo. Tiro una seguita praticità che affronteremo in dettaglio. Ecco qui di nuovo, vedete. Vi dicevo Kapoor, vedete, la piazza nel suo significato storico, sapete, la piazza è la piazza dell'Occidente, in genere si dice che la politica, il politico nasce nella piazza è il luogo in cui il discorso si presenta, si affronta, si discute, per cui nella nostra, visto che il concetto di politica poi è un concetto occidentale, se vedete che è la polis, nella polis la politica tutto è pubblico. Questa dimensione del pubblico poi si afferma storicamente nell'era borghese in cui si scinde in pubblico e privato. Sapete, la storia dell'Occidente poi è l'affermazione progressiva di questa scissione, no? Tra pubblico e privato. E la piazza continua proprio in questa scissione ad affermare la dimensione della pubblicità, del suo significato filosofico, della frase, come luogo pubblico. Se non siete molto bene, non so se spegnete pure questa luce, no? Vedete bene? Chi è che spegne questa luce? E chi è che riuscite a vedere? Ci sono queste che danno una riflessione qua. Periodo di crisi in cui tutti questi concetti che vi dicevo sembrano un po' svanire, per me svaniscono nell'area dei pixel, nell'area pixelata che fa decomporre questi concetti pesanti, industrialisti, sociali dell'era moderna, una fase. E vedete, questa, anche se non ve lo vedete bene, insomma, questa essere, è un essere, questa cosa, tra virgolette, questa opera d'arte, sembra un occhio, una pupilla, a volte viene chiamato del fagiolo, del dim, nel gergo popolare, diciamo, sia accecato, collocato all'interno di quella che è una piazza. Vedete, la dimensione riflessiva, ritorno sul concetto di riflessività, la riflessione, il soggetto qui si riflette ma si riflette in un modo in cui la riflessività speculare, che come sapete già lo specchio non è del tutto vero, già quando io mi rifletto nello specchio non sono del tutto vero, non ci sono tutta una serie di asimmetrie. In questo caso, vedete, c'è un'espansione della prospettiva. Questo è un concetto fondamentale, perché la città nasce con la prospettiva e la prospettiva nasce all'interno della città. Capite? La prospettiva, che è l'arte superiore, il momento più alto nella storia dell'arte rinascimentale, quindi l'inizio dell'era borghese, è la prospettiva, tradurre ciò che sta all'esterno, nella piazza, appunto dentro un quadro, attraverso operazioni matematiche e geometriche, per cui questa prospettiva è tra crisi, veramente doveva essere entrata in crisi già da prima, perché nella prospettiva rinascimentale ci sono tutta una serie di elementi che sono totalmente fasulli, eppure funziona la prospettiva rinascimentale, in parte anche per questa falsità, che è più o meno questa. Nella prospettiva rinascimentale l'occhio del pittore è l'occhio del pittore che costruisce la prospettiva e costruisce quella parte di città. Quando io guardo un quadro rinascimentale, alcuni dei quadri sono famosissimi perché hanno proprio questo titolo, la piazza del secolo, Raffaello, io apparentemente sto osservando la prospettiva, ma io sto osservando il modo in cui il pittore ha costruito la prospettiva. In questo senso la prospettiva è del tutto vera, ma è del tutto falsa, perché io assumo lo sguardo del pittore come se fosse il mio, ma non è vero. Perché io assumo lo sguardo del pittore che costruisce relazioni geometriche e matematiche come se fosse quello oggettivo. La prospettiva, l'occhio del pittore, se mi seguite in questo ragionamento, è molto affine alla voce off. Ci siete su questo? Lo fate questo santo? La voce off, io la sento, ma non so di chi sia, e assorbo facilmente i valori di questa voce off. È molto autorevole, anzi, è alquanto autoritaria. Ci siete, ricordate, di ieri abbiamo parlato. La prospettiva rinascimentale è uguale. Io assumo la costruzione dello spazio del pittore, l'occhio del pittore, come se fosse il mio occhio. A me è così. Non è casuale, per continuare su questa breve impressione, che già nel 600 un pittore cominciò a mettere in crisi questa concezione della prospettiva, che è Velázquez, non so se avete presente, Las Meninas di Velázquez. Andate a vedere, guardate che la mia teologia ha molto a che fare con la pittura o con l'arte in generale. Velázquez, in un quadro famosissimo, che Picasso però aveva ripreso decine di volte come un'ossessione, Velázquez a un certo punto dipinge Las Meninas, cioè la principessa perfetta, no? Regale che sta lì, e a un certo punto apre una porta in fondo e ci mette il pittore e dice in questo modo: attenzione, io vi sto presentando una stanza dove si stanno costruendo le Medina, cioè le principesse di Spagna. Ma questa costruzione pittorica è una costruzione elaborata da uno sguardo che è il mio, non è argentina. Velázquez è il primo che mette se stesso dentro la prospettiva per moltiplicare le soggettività presenti e per dislocare in un certo senso la crisi della prospettiva. Sta già appunto nel 600 questo pittore che colloca se stesso dentro la prospettiva. È come se Margaret Mead non fosse solamente dietro, capite, ma stesse anche nel campo cinematografico, stesse anche nel frame del video, del film, che sarebbe molto più onesto, perché vedere lei che parla ha già una maggiore esplicitazione della sua soggettività. Bene, questo è diciamo così, il senso di una prospettiva, che stavo dicendo nel Rinascimento, poi tre crisi totalmente, tre crisi, sapete, il futurismo, i primi a spalmare la prospettiva sono stati i futuristi. E i futuristi non casualmente erano appassionati alla metropoli, alla città, la città nascente come metropoli. No, già le prospettive si muovevano, i futuristi. Era mossa, la città era mossa. Il famoso cane di Boccioli era mosso, e via dicendo. Il corpo nello spazio si muoveva nella pittura. E poi naturalmente il cubismo, di nuovo Picasso, grazie all'arte africana, no, il cubismo moltiplica le prospettive. Ora noi siamo arrivati a questa prospettiva, vedete, la prospettiva di questa cosa, di questo essere, per me è un essere materiale e immateriale, organico e inorganico. Ecco, questa prima opera d'arte per me, l'ho messa come prima opera, no? Perché incrocia l'organico e l'inorganico. È come se fosse appunto una pupilla che viene collocata nel mezzo di una piazza e la riflessione di questa pupilla, vedete, si dilata. Io non mi rispecchio solamente, io dietro di me e insieme a me vedo una espansione a dismisura di quello che sono io in un contesto metropolitano. Quindi vedete come questa essere, questo essere totalmente di un felicismo organico e inorganico, disloca la sensibilità del soggetto. Ve lo dico in un altro modo: la città diventa metropoli comunicazionale quando questi esseri cominciano a produrre metropoli. Silenzio. Quando questi esseri, queste cose esseri, queste cose viventi, queste opere d'arte che esprimono questo qualcosa di dislocante, producono metropoli, producono qualche cosa che non è più appunto basato sul sociale, sul dualismo. Qui c'è, e qui il concetto per me è importante, si afferma la molteplicità. Si transita da una composizione, da una dialettica, diciamo meglio, da una dialettica dualista a uno scenario performatico molteplice. Questo è uno scenario performatico, è un'opera d'arte performatica che favorisce il movimento e l'attività del soggetto, anche questo volevo sottolineare. Cioè, mentre nell'opera d'arte classica io sto di fronte all'opera d'arte e l'assorbo e cerco magari di farmi trasformare dall'opera d'arte, come vi ho detto, ma vi è questa relazione in cui io in qualche modo sono spettatore dell'opera d'arte. Qui invece il soggetto è parte dell'opera. Capite? Non è fisso, è parte. Il soggetto diventa parte performatica dell'opera. Per cui questa opera, questo essere, io osservo anche le persone che girano intorno a questo essere, e che proprio nel loro girare, nel guardarsi, nel meravigliarsi, nel parlare, eccetera, producono l'opera. Quindi l'opera non è prodotta dal silenzio, perché l'opera d'arte in genere noi quando andiamo a musei ce la mettiamo, là ci sono i giapponesi, ci sono i turisti, vorrei stare davanti alla Gioconda nell'assoluto silenzio e solitudine, perché noi questo abbiamo imparato, no? Che l'opera d'arte si osserva nella solitudine in cui io soggetto sto di fronte all'opera e lì la relazione si stabilisce. Se c'è una caciara di giapponesi, di bambini o di gente che sono turista e che non capiscono niente, io entro in crisi, non ho più rapporto con l'opera d'arte, non riesco a sentirla e quindi mi lamento, e quindi si mettono costantemente questi lamenti sul fatto che io sento stragedi di persone, turisti, eccetera, eccetera. Bene, ora questo tipo di arte performatica elimina tutti questi lamenti, perché in questo modo anche qualsiasi atteggiamento io o altri possono avere sono parte costitutiva dell'esperienza, perché sono parte costitutiva dell'esperienza di un'arte che non è solamente opera, ma è processo, ecco perché la mettere non mi venga a bene, è processo, è processuale, questa opera è processuale, non si può fotografare e basta, si dice di non fotografare, cioè no, non lo fotografare, l'ho presa. Ma la relazione che ho con questa e con altre opere che vedremo è processuale, io costruisco nei miei movimenti l'opera, io costruisco nei miei movimenti, anche nel mio silenzio, anche nella mia immobilità, costruisco l'opera. Vedete che abbiamo un salto radicale dalla concezione classica, diciamo, moderna dell'opera d'arte. È un alto livello che sta penetrando dentro la metropoli, la trasforma. Il termine, secondo me, corretto, lo vedete scritto in basso, è il termine usato non casualmente da un gruppo di architetti olandesi. Gli olandesi nell'architettura negli ultimi anni hanno fatto delle cose più interessanti, per cui se riprendessero da me, porterei tutti quanti in Olanda a vedere Rotterdam, come abbiamo fatto in passato con altri studenti, probabilmente non potremmo, ma insomma vediamo un po'. Vi dicevo, un gruppo di architetti ha elaborato questo concetto, che è il concetto della metropoli comunicazionale, cioè il transurbanism. Questo mi permette di fare una battuta, perché giorni fa avevo finito di fare la lezione e il mio collega mi ha detto: ah, ma di che hai parlato oggi? Io parlo della trans. Ah, le transessuali, ha detto. No, ho detto la trans, e lui dice, ah, ha ripetuto, non so, tipo, lasciamo perdere, ha ripetuto. Però insomma. Allora, trans per questo, transessuale, probabilmente, è questo transito continuo dentro la metropoli, che è la metropoli comunicazionale, che è transitiva. Concetto, forse più significativo che adesso vi dà. Allora, questa parte che vi sto introducendo, tra l'altro, in questa prima lezione, cercherà di svolgere una composizione. Già l'altra volta vi ho parlato che l'antropologia, criticando Gertz ieri, vi ho detto che l'antropologia non può più essere solo scrittura, deve essere appunto, per me, una composizione, perché deve avere la scrittura, la voce, le immagini, i suoni, eccetera. Quindi qualcosa in più compositivo che a me piace tentare di presentare con concetti sensoriali. Concetti sensoriali che per me vuol dire che la dimensione concettuale è alla ricerca di una nuova razionalità, di nuove razionalità. Io sono una persona più lontana dagli irrazionalismi, detesto gli irrazionalismi, ma sono profondamente convinto che la razionalità occidentale ha dei limiti che devono essere affrontati e sviluppati in qualche altro modo. Quindi la consapevolezza di una crisi dentro la forma della razionalità dell'Occidente. Io sono profondamente convinto, c'è una crisi dentro la razionalità occidentale. Una di queste crisi deriva da questa opposizione costante tra razionalità e sensorialità. Allora, tentare di sviluppare concetti sensoriali è un tentativo, così diciamo, se molto iniziale, di dare un senso, un significato mescolato, un mescolamento delicato tra la concettualità e la sensorialità. Ecco, non vederle in carità, ma vederle una dentro l'altra, diciamo, uno che transita pezzi dell'uno dentro pezzi dell'altro. E ci saranno tutta una serie di concetti, ecco, qui l'ho messo degli occhi, vedremo perché. Ecco, qui ho messo diversi occhi, perché il primo elemento etnografico, cioè metodologico, che vi presento, mi pare già che l'ho accennato sullo sguardo. Se affrontiamo la comunicazione visuale come ambito della nostra ricerca, lo sguardo è il soggetto per eccellenza di questa nostra ricerca. E allora dobbiamo partire dalla consapevolezza che non c'è niente di naturale nell'occhio. Non c'è niente di naturale nell'occhio. L'occhio sempre e costantemente ha una costituzione culturalmente definita e mutante. Quindi la cosa che dobbiamo apprendere è apprendere a guardare e a guardarsi, il termine che ho messo farsi occhio o farsi vedere, farsi occhio, per me cerca di dare questo senso di sviluppare una nostra sensibilità, direi proprio corporale, fatta di occhi. È come se io tentassi di costruire il mio corpo come fatto di occhi. Un corpo fatto di occhi, e tutti questi occhi apprendono costantemente a osservare e a osservarsi dentro, appunto, i processi della comunicazione visuale in un modo che non può che essere costantemente appunto appreso. Quindi il posizionamento che per me è fondamentale è quello di chi posiziona il proprio occhio, il farsi occhio, il farsi vedere, in un modo di addestramento, di attenzione a come una molteplicità di codici sono inscenati appunto dalla comunicazione contemporanea. La comunicazione è piena di miriadi di codici, noi dobbiamo apprendere a osservarli, a interpretarli, ma anche, per essere diversi, di trasformarli. Quindi farsi occhio, perché vedete ci sono tanti occhi differenti, anche un occhio di legno, c'è un famoso occhio di legno che spero che conosciate, c'è un occhio di legno, questo è arachi, questo è un occhio di arachi, grande. Questo è un omaggio anche a uno studente che viene da fuori, che sta qui da noi, che si è tatuato, si è fatto metropoli, insomma, ha tatuato nel suo corpo elementi di costruzione della metropoli, questa è viceversa. È un architetto olandese che dice, vedete, questa è una diga, sapete, l'Olanda ha proprio le dighe, vedete, questa è una diga che in questo modo, che sembra un serpente, sembra un animale, non si capisce, è un essere molto apparentato all'altro essere che ho mostrato, e vedete in questa relazione si stabilisce una connessione tra corpo e metropoli che non è più quella, diciamo, classica, tradizionale, ma moderna, è un'altra correlazione. E quindi vi do un'ulteriore specificazione, la ricerca sulla metropoli comunicazionale, e quindi sui feticismi visuali, si basa anche su questa relazione, corpo-metropoli. Il feticismo visuale è un transito tra corpo e metropoli. Anthropology in Mind, questa è una minacciosa raccomandazione che vi faccio. società di solido, unitario, compatto, produttivo, dualista, dialettico, si afferma la fluidità sincretica e polifonica di un trittico che è per me la comunicazione, la cultura e il consumo. In questo senso, a mio avviso, e poi sicuramente per studenti come voi, il centro della nostra ricerca non deve essere più la società, ma deve essere la comunicazione nel suo rapporto con la cultura e con il consumo. Queste tre C, cultura, consumo e comunicazione, stanno subentrando, che sono molto più fluidi, sono più leggeri, sono più multipli, stanno subentrando alla pesantezza di ciò industrialista e dialettica del sociale. Questo trittico, vedete, emerge dentro e fuori la produzione industriale, nel senso che non è che la produzione industriale sia finita, chiaramente, sono nel più centro. Cioè, nella modernità, il centro della politica, il centro della città e il centro della dialettica era il lavoro, la produzione, la fabbrica e la politica. La fabbrica era il centro che attraverso cui ruotava i processi di valore in termini economici, valori in termini culturali, conflitti e via dicendo. Ora, i conflitti della fabbrica sono uno dei tanti conflitti. La fabbrica è uno dei centri, ma non è più quello essenziale, non è più il centro. Anzi, ve lo dico in un altro modo, la nuova metropoli non ha più centri, non ha più il centro nel suo significato classico, così come non ha più periferie nel loro significato classico. L'altra volta che avevo accennato nel primo giorno su come Piazza Vittorio, per esempio, c'è stato un periodo che era considerata periferia. Di fatto era centro, stava producendo più metropoli Piazza Vittorio che i Parioli, che era Piazza Vittorio che si stava creando l'innovazione metropolitana, non tanto per le molteplicità etniche, tra virgolette, ma proprio per tanti aspetti anche produttivi, parlavo di quei negozi che c'erano, che c'erano ancora. Quindi dicevo, la nuova metropoli è policentrica. E questo policentrismo è costantemente in mutazione. Per farvi, per presentarvi in modo ancora, io spero, più chiaro questo transito, io ho messo due immagini che adesso vi presento brevemente, una la conoscete, ma vediamo la seconda, la prima, ho messo la prima. Allora, molti di questi processi che sono cambiati sono iniziati da una città molto strana che probabilmente lo conoscete, non so se qualcuno di voi è stato a Las Vegas. C'è stato qualcuno a Las Vegas? Nessuno? Perché non andate a Las Vegas? Las Vegas è una città molto significativa, perché sapete, nasce la nulla, sta nel deserto. E a un certo punto nasce la città totalmente del consumo e della comunicazione. E a Las Vegas che cosa iniziano a mettere? Iniziano a mettere frammenti di città di tutto il mondo. Per cui invece di andare a Parigi, o a Venezia, o a Rio de Janeiro, o a New York, voi andate a Las Vegas e due ore state a Las Vegas. A New York, due ore stata a Parigi, due ore stata a Venezia e avete fatto il giro del mondo. Anzi, quando sono stato io, Venezia, cioè Venice, era il momento più forte, stava battendo tutte le altre città alla stessa. E molte delle cose che vi sto dicendo, per esempio, io le ho prese lì, cioè avevo già delle ipotesi, però vi assicuro che alla Svezia, se voi entrate dentro Venice, c'è il canal grande. Tutte le pitture del Tiepolo che stanno nel soffitto. Nel Caracrande c'è una gondola, la gondola c'è un cigano è mexico-americano, con i baffoni, un po' scuro di pelle, col suo cappellaccio, che fa finta, manda la gondola, nella gondola c'erano dei turisti giapponesi, la cosa importante è che i turisti giapponesi e tutti intorno, cioè tutti gli altri turisti, fotografavano i turisti giapponesi, e noi giapponesi fotografavano i turisti che fotografavano. Cioè, si era creato veramente, in un altro modo, un tipo di dimensione performatica, per non si capiva più chi è l'attore, chi è il credente. Allora, veramente che non mi interessa, per cui io ho capito che Las Vegas stava diventando una città molto significativa. Tra l'altro, voi probabilmente non lo sapete, ma il primo concetto di postmoderno, l'avete sentito il concetto di postmoderno? Lo conoscete? L'avete studiato? Il concetto che ha preso più significativo del postmoderno non è quello di Lacan, è quello di Robert Venturi, l'architetto, che scrive un libro negli anni 70 bellissimo e dice Learning from Las Vegas. Cioè, dobbiamo apprendere, dobbiamo imparare da Las Vegas, perché Las Vegas sta rinascendo tutto. Las Vegas, tutti gli stili del mondo stanno là. Spezzettati, assemblati. Per cui uno dei concetti più belli del postmoderno è quello legato alla metropoli, in particolare Las Vegas, in cui si dice la storia dell'architettura è finita. Questo vuol dire, non si dovrà più costruire una nuova figura architettonica, perché tutto è stato fatto, la storia è finita, posso solo citare. L'architettura è un assemblaggio di citazioni. Il carrello della spesa che sta nella strada, tra l'altro. capite? Cioè, vedete, le automobili sfrecciano e che cosa guardano? Guardano la pubblicità della pubblicità, praticamente, la pubblicità del consumo, una cosa metafisica quasi. Capite? La metafisica del consumo sta già dentro la spiegazione. E questo è l'oggetto che dà il senso di una nuova metropoli che sta nascendo a Las Vegas, che è in opposizione a New York. Il problema di Las Vegas nasce contro New York, diciamo, perché New York è una diversa città industriale, per esempio. Allora, vedete, questo è l'inizio della metropoli, gli anni 70, l'inizio di fine anni 70. Questo è il 2000. Vedete la differenza tra il consumo che manifesta se stesso come simbolo quasi metafisico e un nuovo tipo di arte che è legata anch'essa al consumo e che assume i consumatori, nel senso letterale, che sono spettatori, quasi spettatori, diciamo così, uno spettatore, un attore che specula, che vede, che osserva e si osserva in questa pupilla, in questo fagiolo pupilla, che riflette in questo modo trasfigurante. Ecco, questa è la metropoli contemporanea. Questa è la transizione che stiamo vivendo tra la fine degli anni 70 e gli anni 2000. Di nuovo immagine, però è differente dall'altro. È un'immagine che, se andate su Google Earth, la potete anche vedere. Google Earth è uno strumento importante per viaggiare. Io ho messo anche qui una confezione iniziale di immagine, questa figurità logica legata ai concetti sensoriali che ho fatto vedere prima, le transculture, la multisensorialità, le emozioni delle poliforme, sono concetti che conoscete, però con un mix di immagini che poi magari vedremo nel dettaglio sicuramente. Ecco, chiuderei questa prima parte con questa riflessione. Non siete stati a Las Vegas, però spero che siete stati a Londra. Siete stati? Allora, la Kate Moda la conoscete? Sì, chi di qua la conosce? A tutti gli altri, prendete la Ryanair, andate con 20 euro, andate a Londra, andate a vedere la Tate Modern, dal sicuro, perché è fondamentale. La Tate Modern, allora, la Tate Modern è probabilmente l'esposizione di arte contemporanea più interessante che ci sia al mondo, che è questo di sinistra. Attenzione, vedete solo questa di sinistra, questa qua. La Tate era una fabbrica di energia elettrica che stava e sta ancora al centro di Londra, su Danigi, in tutta l'area industriale di Londra, tutta l'area che poi è stata, con un termine, non so se conoscete, è stata gentrificata. Conoscete questo termine? Che è la traduzione letterale di una parola inglese, gentrification, che non si può tradurre. Gentrificata significa che quartiere, per esempio operaio, viene parte demolito, parte viene ristrutturato, gli operai vengono mandati via se hanno lì o non c'è più lavoro, e al posto della parte ci si mette ristoranti, cinema, teatro, per esempio, cioè si sale nella stratificazione sociale, diciamo così, gente. Quindi tutta questa area, che era un'area dei docks, dove c'erano i docks, sbarco delle merci, è stata trasformata lontano da tempo in un'area culturale di consumo e di comunicazione. Londra, cioè la capitale dove è nato il capitalismo moderno, l'era industriale britannica, per prima ha capito Londra che stava accadendo una grande transizione, e questa transizione stava ridefinendo il senso della città e che doveva essere definita in una nuova maniera. E allora le vecchie fabbriche dovevano, prima possibile, essere trasformate in qualcosa di altro. Allora il compito è stato dato a due architetti svizzeri, i quali sono segnati d'oro, non è un po' complicato, si chiamano Herzog e De Peron, due architetti svizzeri importantissimi, che hanno ristrutturato la Lietmore. Vedete? Hanno messo qui alcuni elementi innovativi, qui c'è la grande torre industrialista, al suo interno, quindi fuori l'architettura è quella industriale, vedete? È basata su un tipo di prospettiva, che è una prospettiva basata sulla geometria, la matematica e il quadrato. Io dico sinceramente questo, questa fabbrica ha una soggettività affine a chi ci lavora dentro. L'identità della fabbrica produce un modello identitario affine a chi ci lavora. Quindi un'identità forte, compatta, che ci sta lì per tutta la vita, perché il tuo lavoro salariato, sarà quello di stare dentro una fabbrica. E la fabbrica è fatta in questo modo, geometria e un'idea, tagliata, precisa, visibile e riconoscibile. L'identità è una. Quella è la tua identità, l'identità della fabbrica, del lavoro, del sesso e della persona. Quindi questa Tate, come fabbrica di elettricità, ha una sua forte identità, che è quella classica moderna, al suo interno è tutto opposto, il suo interno è pieno, e qui non si può vedere, dell'effervescenza dell'arte contemporanea. Arte contemporanea, parte moderna, principalmente arte contemporanea. E l'arte contemporanea ha bisogno di grandi spazi. Capite? Il museo, così come è stato concepito, per esempio da noi, gli Uffizi, mi sei capito lì, sono bellissimi, ma sono proprio. No, lì non c'entra l'arte contemporanea, no? Ci vogliono delle sale enormi per avere l'esperienza dell'arte contemporanea. Bene, questa è la trasformazione iniziale di Londra da città industriale a città chiamata post-industriale o metropoli comunicazionale, mi piace di più metropoli comunicazionale, però certamente post-industriale, l'industria non c'è, non è più un centro, capisci? L'industria non ha più un centro urbano e neanche urbanistico. Attira non so quanti spettatori e quindi diventa insufficiente, nonostante la sua enormità è insufficiente. E allora gli stessi architetti, Herzog e De Meuron, hanno avuto il compito di fare la nuova Lietmore. Quindi voi non solo avete visto, tranne una decina di studenti, la vecchia, ma rischiate di non vedere anche la nuova se non ci ha dato. Perché tra un po' sarà fatta e sarà già obsoleta. Allora, vedete la nuova come è fatta? Vedete la differenza? Allora, assumete, come vi ho detto prima, la relazione di soggettività tra l'edificio e il soggetto. Qui vedete identità chiara, e compatta, quadrata, lavorativa, industrialista. Qui vedete chi è una dissonanza molteplice di fratture compositive assemblate l'una sopra attraverso l'altra che non producono più una identità, quella lavorista, l'identità industrialista, ma producono una molteplicità identitaria. Allora, la riflessione, questa è la politica, se volete, attuale. La politica attuale transita da una concezione di un'identità basata sull'industria, diciamo così, quindi mono-identità, mono-lavoro, mono-soggetto, a una identità multipla, come questo edificio, in cui il soggetto ha una fluidità dissonante, compositiva, di assemblaggi e di mutazioni, che danno il pulsare molteplice e fluido dell'identità contemporanea. Quindi il transito compiuto, in fase di compimento totale, dall'era appunto industriale, fuori uguale, dentro diversa, diventa anche esternamente la presentazione compositiva di una molteplicità identitaria. Rappresentazione compositiva di una molteplicità identitaria in cui l'architettura anticipa o dà un senso chiaro, simbolicamente toccante e pulsante di quello che sta per accadere. E questo naturalmente permette di svolgere una riflessione sulle città di ciascuno di noi, in particolare sulla città come Roma, naturalmente, che in parte è ancora profondamente città, ma in parte con la sua potilettezza Roma ha assunto un lento transitare verso la metropoli comunicazionale, un lento transitare verso la metropoli comunicazionale. Sono chiari alcuni indicatori urbanistici, architettonici, alcune trasformazioni di aree industriali in aree culturali e comunicative, insomma, che sono a Roma. Il Palazzo d'Auditorium è uno degli elementi. Sapete che Zaha Hadid, conoscete Zaha Hadid? Questa la dovreste conoscere, magari. Architetta di origine iraniana, adesso lavora per tutto il mondo, e che sta facendo a Roma il nuovo museo di arte contemporanea, a Flaminio. Io spero che chi è romano lo sappia, ma spero che sia pronta, si pare che sia pronta il prossimo anno, e è una delle grandi architette che disegna, sta ridisegnando il senso della memoria. Un altro consiglio che vi do, insomma, andate anche lì a vedere le cose che fa lei, perché la webografia che io vi offro sugli architetti è tanto importante quanto quella degli antropologi. Lo dico onestamente, la webografia sugli architetti è tanto importante quanto la bibliografia degli antropologi. Quindi andatevi a vedere queste cose. Ecco, questa sarà la nuova, vedete qui alle spalle c'è la vecchia Tech Modern, c'è il camino con questo disegno degli architetti che erano ristrutturati, qui c'è la fabbrica industrialista e qui c'è la nuova composizione architettonica, vedete, che stanno già costruendo. Questi sono soggetti da in transito che definiranno lo scenario di un presente e futuro. Ok? Le informazioni stanno nel sito, quindi il sito in genere sempre aggiornato, cioè non ci sono problemi su queste cose. Su questa dimensione, città, metropoli, dall'industria alla comunicazione, la società alla comunicazione, ci siete abbastanza? C'è una domanda. Certo? Apocalittico. Allora, di che disco metodo? Io in genere ho semplicemente sfiorato il postmoderno, che è un termine molto antico che io in genere non uso. Allora, però, non so se voi ci siete entrati su questa terminologia. Postmoderno ha diverse accezioni, non ne ha una sola, però in genere una molto nota è quella di un filosofo che si chiama Lyotard, che questa dovete conoscere, che è importante, anche se è filosofica, è la crisi delle grandi narrazioni. Quando si parla di postmoderno si intende, una delle accezioni è crisi delle grandi narrazioni. Le grandi narrazioni si intendono come grandi costruzioni teoriche che nella modernità davano prospettive universali. Il marxismo è una grande narrazione, la psicoanalisi è una grande narrazione, la religione è una grande narrazione, la religione cattolica, protestante, per esempio. Quindi queste grandi narrazioni secondo me sono andate in crisi, e a fronte di questa crisi delle grandi narrazioni si sviluppa qualcosa di altro che lui non definisce se non in termini postmoderni, che sta troppo la modernità, ma che ancora non è chiaro. Allora, un'altra concezione postmoderno, più, diciamo così, se mi permettete il termine, più conservatore, più conservatrice, è quella che dice la storia è finita. Tutto quello che dovevamo inventare l'abbiamo inventato. Tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Ormai non può cambiare più niente. Ora c'è questa seconda concezione del postmoderno, che è più conservatrice, è tutto è stato fatto, tutto è stato raccontato, la storia non può che riprodurre quanto già è stato vissuto. C'è la terza concezione del postmoderno, che è un po' affine alla seconda, ma non è uguale, che è quella di Venturi che avevo detto. Nell'architettura non si può più inventare nulla perché tutto è stato inventato, quindi non è nella storia, ma nella storia dell'architettura che non si può inventare più nulla. Quindi l'architettura può essere solo una citazione del passato, di tutti i passati, di tutte le culture. Per questo sapete che facevano? Prendevano, riducevo a icone la storia, le storie dell'architettura. Tutto ai cuori, e poi non osservava la piacere. C'è un'altra concezione di Venturi che è interessante di postmoderno, che forse è la più bella di vostra realtà. Per postmoderno intende la pubblicità di codici per facciata di edificio. Allora, c'è un edificio a Las Vegas che in genere è piccolino, non è molto grande, non è un grattacielo, non ci sono grattacieli. Ci sono grattacieli a New York, alla sera, ci sono piccoli edifici. La sveglia è per ogni piccolo edificio vi è un eccesso di codici. Il termine inglese è buono, è signflation. Signflation, un'inflazione di segni. Allora, una molteplicità di codici per unità di immagine, una molteplicità di codici per unità di immagine è postmoderno. È interessante questo. Cioè, noi spesso diciamo, ecco, la conversione, tutto quale, per esempio, questa dimensione che una unità di immagine ha una complessità di codici, perché a Las Vegas un edificio piccolo ha tantissime cose, tantissime immagini, insegne pubblicitarie, tutto questo ci dice di questa, ci racconta ecco, qualche cosa di una molteplicità di codici per unità di immagini che sia in un edificio ma anche una pubblicità. Se prendete una pubblicità televisiva e voi fermate un frame, questo frame ha tanti codici. Per il frame. E c'era molti di più rispetto al passato. Oppure prendete, qual è la differenza tra il cinema americano e gli altri cinema? È molto semplice. Voi prendete un frame di un film americano, lo prendete e isolate, oppure lo vedete nel suo movimento. Se voi fate attenzione a come scorrono le immagini del cinema americano, per ogni sequenza vi sono un'enorme quantità di codici. Un'enorme. Se voi vedete il cinema italiano, anche il cinema francese, il cinema europeo, l'inquadratura è più semplice, è più, diciamo, si moderna. Ha due o tre codici, no, che stanno là. Allora, apprendere a vedere il cinema, per esempio il cinema americano, vuol dire che la nostra percezione dello sguardo è addestrata, una persona addestrata in un modo più o meno spontaneo a decodificare, a percepire tanti codici contemporaneamente. D'altronde, quando noi abbiamo una home page di una schermata del computer, quanti codici abbiamo? Allora, la riflessione è la seguente, secondo me dovrebbe essere chiarissima. Quando io ho una schermata del computer, io ho tantissimi codici che simultaneamente stanno a me in fronte. È chiaro questo? È chiaro? Ho tanti codici. Il mio sguardo è attualmente in grado di afferrare questa quantità di codici. Se sono addestrato normalmente a questi due linguaggi. Se non sono addestrato non ci capisco nulla, ne capisco uno solo, oppure non capisco proprio niente. Pensate a questo, pensate se, questa è una cosa un po' stupida, però ve dico, pensate se una persona negli anni 60 che è abituata a vedere la pubblicità che dura due minuti, in tanti lunghi, lunghe sequenze, in cui le persone parlano, raccontano la storia, i capelli che mancano, eccetera, eccetera, con le sceneggiate, alla fine della storia c'è un prodotto, per esempio. Questa pubblicità di due minuti, ma come tagli di montaggio ne avrà 5-6, a volte 10 tagli di montaggio. Una pubblicità contemporanea, mettiamo che di 30 minuti, può avere 60, 80, 90 tagli di montaggio, senza commento esterno e senza commento neanche interno, solo immagini. Allora è probabile che una persona degli anni 60 di questa pubblicità non capisca nulla, oppure se è un target differente, non si riferisce a più la pubblicità. Questo per dire che quando Robert Venturi dice che Las Vegas, con i suoi edifici, sviluppa una molteplicità di codici per unità di immagini, sta dicendo, sta affermando una tendenza, ripeto, anni 70, durante il 76, scolino, sta affermando una tendenza che diventerà sempre più complessa e molteplice nel campo del cinema, del computer, normalmente, ma anche della più banale delle televisioni. Perché? La risposta è molto semplice, perché il digitale favorisce tutto questo. Cioè il cinema normale aveva un modo di fare il montaggio. Il cinema digitale fa un montaggio interno infinito, perché io posso mettere tutti i codici che posso volere all'interno di una sequenza. Quindi la cultura digitale, per entrare dentro, è la fine. Questa è la cultura digitale. Vedete, qui avete una molteplicità di codici per unità di immagini. Secondo me è più una molteplicità legata al consumo, diciamo così, grossolano di Las Vegas, è legata al consumo del contemporaneo. Quindi cogliete una continuità e cogliete anche le differenze. Sai che questo può essere visto un po' affinitati con il tipo di schermata di computer, credo che sia abbastanza evidente rispetto a come, come era la fabbrica, la fabbrica tradizionale, era questa, no? C'era una chiarissima unità identitaria solida, no? Se, se questo edificio stesse a Las Vegas sarebbe ricoperto di pubblicità, sarebbe ricoperto di pubblicità, avrebbe una molteplicità di insegne, questo qui a sinistra. Per fortuna quello di destra non è preciso, non necessita. Ci sono altre domande? Per vedere, già questa immagine, questa è più evidente, ma vedete, quindi in realtà il senso di che è Megalopoli è coesistenza di codici differenti. Questo per me è il senso della metropoli, cioè una cattedrale gotica, antica, adesso non so, diciamo che è medievale, magari non è vero, ma tanto per dire medievale da scimentare, coabita nello stesso frame, nella stessa cornice, con uno shopping contemporaneo. Riflettete su questo, non so se l'avete pensato, gli shopping center, i grandi shopping center, quelli che sono tutti senza finestre con l'esterno. Vi è un'affinità? Perché lo shopping center non ha finestre? Avete riflettuto su questo? Perché non si può guardare fuori? Questa è certamente la prima e forse la più importante risposta. Se ci fossero finestre vado a guardare fuori. Invece il mio sguardo deve essere sempre costantemente diretto all'interno. Cioè tutti gli spazi possibili dello shopping stanno dentro, non può esserci fuori. Che è? Non è fino alla fabbrica. Anche la fabbrica è una finestra. La fabbrica non puoi vedere fuori, ti puoi affacciare quando tu lavori. Sto parlando della fabbrica classica, non sto parlando di un ufficio, eccetera, eccetera. Quindi certo, lo sguardo che deve essere indirizzato costantemente non può essere esterno, deve essere interno, come se l'occhio guardasse dentro se stesso. Quindi non ci si può distrarre. Il panorama possibile è quello interno, non c'è un panorama esterno. Scusa? Come la gente dove trovare tutte luci e tutte luci? Come la gente la sera, perché l'Argentina non ha detto, lei conosce bene la sera, l'Argentina l'ha confessato. Mi ha detto che c'è Bellaria? Alla sera? Ah, Bellagio, scusa, è vero, c'è Bellagio. Bellagio, che è un altro posto italiano molto famoso, c'è, diciamo, ci sono tre posti italiani che ricordi, c'è il Caesar Palace, dove ci sono gli antichi romani, non mi dicono, ma l'esperienza è più bella, dice, perché hanno detto, perché ho detto che sono i cavalieri vestiti o da antichi romani o da veneziani dentro questi. E stavo dicendo? Ah, non mi dica bene. E allora, a proposito di Alberti, come hai fatto prima, sono solitario e ho fatto una riflessione, non so se avete visto che c'è dall'altro lato. C'è un albergo molto famoso, è considerato uno degli alberghi più innovativi di Roma. Hai fatto caso come è fatto? Quello là. Avete visto? Guardatelo meglio. È un edificio di disabilità. Da una parte ci sono le stanze per gli esseri umani e dall'altra parte ci sono le stanze per gli automobili. È assolutamente simmetrico. Io vi troverò meglio un albergo in cui c'è lo stesso spazio e quasi quasi lo stesso stile tra gli automobili e le stanze. Sono tutte e due stanze. È come se gli automobili e gli automobili avessero appunto la stessa dignità e identità degli esseri umani e gli esseri umani avessero la stessa identità e dignità degli automobili. È simmetrico. E se vi posso dare un consiglio, andate senza consumare nulla, perché è carissimo, ma c'è una bellissima, come si chiama? terrazza. L'hai vista col mondo? C'è la piscina molto bella, appena di legno, e poi c'è la bellissima terrazza, si vede una Roma poco conosciuta perché si vede tutta le ferrovie, è molto bella, la perspettiva. Il consiglio è non consumare niente, perché prendo un caffè e pagare tipo con la carta di credito. Però è molto interessante, è una cosa su cui riflettere, ti consiglio, magari dopo di guardarlo meglio. Sono stati dei giorni a diritti romani, adesso di proprietà non costerese. Della Sassa, della compagnia di Sassa. Ecco, guardate questa, che sono sempre di questi due artisti, bravissimi, adesso vedete, qui c'è la riescritta, adesso vedremo. Questa è una nuova alla sala dei concerti di Amburgo. Vedete, qui è ancora più chiaro per certi versi, la scelta è differente dalla tenda. Vedete, qui in basso avete la squadratura classica, tradizionale, moderna, vedete? E sopra avete il nuovo, quello che sta emergendo. Sopra c'è il senso di una comunicazione con di parte, citazioni, vedete, sono le tre citazionali, però di parte va da tutt'altra parte, scusate il bisticcio di parola, con una leggerezza di materiali, perché tutto questo è possibile, queste costruzioni sono possibili, perché adesso ci sono delle tecnologie differenti da quelle classiche moderne, capite? C'è una nuova tecnologia che permette di costruire non solo il cemento armato, ma anche lo stesso cemento armato può essere molto più duttile. E quindi si possono costruire questi elementi più fantasmagorici. Vedete come è fatta all'interno? Ecco, qui vedete, questo mi permette una riflessione sulla una riflessione, diciamo così. Noi siamo dentro questa sala. Questa sala è una sala, come sapete, era una caserma, poi è diventata tante cose, e ha un tipo di architettura, vedete? Allora, il tipo di architettura di questa nostra sala, per quanto è bella, distrutta, eccetera, non è neutrale né silenziosa. Ma ci va che il linguaggio del corpo che abbiamo noi esseri umani è un linguaggio che ha anche abbastanza, che è come un essere umano, che ci parla di un tipo di geometria, di un tipo di struttura, come voi siete seduti, come io una volta sono in piedi, per stare in piedi, per stare seduto, tutta questa visione geometrica spaziale ha un significato. Questo significato noi lo prendiamo come se fosse ovvio, naturale e implicito, come la voce nostra. Noi lo assorbiamo, ma quando assorbiamo questo spazio, questa geometria dello spazio, noi stiamo assorbendo anche dei lavori. Stiamo assorbendo modelli di comportamento. Ci stiamo informando e l'informazione o inculturazione, diciamo così, è quella implicita, e l'inculturazione implicita è complicata, è pericolosa, a volte è veramente pericolosa, perché noi non ci accorgiamo che abbiamo assunto come assolutamente normale il fatto che si faccia lezione di una parola di vista, che è una di geometria, di prospettiva, che è quella della modernità. Per cui stiamo dentro l'impiccio, perché stiamo cercando di affrontare i termini, diciamo così, discorsivi, compositivi, qualcosa che sta oltre la modernità, ma stiamo in un contesto che è totalmente moderno. Allora esprimiamo un conflitto, o una tensione, o se volete anche una dialogica, tra la maniera in cui si dovrebbe apprendere dentro l'università e la struttura architettonica che è ancora prima. Ci sarà una relazione? Io penso di sì, guardate. Penso che l'architettura abbia una capacità formativa enorme, perché è implicita spesso. Non siamo tanto abituati a riflettere e a rifletterci quando siamo dentro gli spazi dell'architettura. E a considerarli come meritano, cioè storici, mutanti. Allora, immaginate se noi facessimo una lezione qua dentro, ve la immaginate qua dentro? sensorialità, di immaginazione, di composizione. Posso dire una cosa che magari di liberazione che c'è qui dentro è maggiore rispetto a questa nostra struttura, quanto bella, perché a me piace, penso anche a voi, però a me sarebbe un enorme piacere un giorno poter fare una missione per dentro. Vedete questi esseri, questo anche Osterois si pronuncia in questo modo, è un architetto olandese, uno di questi bravi architetti. Vedete queste forme, guardate che forma, guardate questo, la forma, diciamo, da essere postumano, il termine che si dovrebbe usare è quel postumano. Conoscete il termine postumano? Lo conoscete? Nessuno? Quando insisto sul fatto che voi dovete conoscere l'arte contemporanea è per tanti motivi. Per esempio, abbiamo visto che il concetto di postmoderno, che spesso è legato alle scienze sociali, di fatto ha una matrice anche nell'architettura, per esempio, che forse è già più significativa. Il termine post-umano è un termine che io credo che non casualmente voi non conoscete, perché è legato all'arte contemporanea. Ma attenzione, è legata all'arte contemporanea ormai di 14 anni fa. Cioè, 14 anni fa, in una città tedesca che si chiama Kassel, con il K, Kassel, che è diventata in competizione con Venezia, cioè la Biennale d'Arte di Venezia e la Biennale di Kassel sono in competizione. Ecco, a Kassel, nel 94-95, adesso non mi ricordo bene, 94-95, ci fu una grande esposizione d'arte contemporanea che fu chiamata post-humana, anzi in inglese post-human. Allora, che cosa si intende? Post-humano si intende che ci sono già da tempo, già da qualche ventennio, forse trentennio, una serie di artisti, di nuovo parliamo dell'arte, una serie di artisti che assumono, poi vi farò vedere l'immagine, se non ce l'ho prima, ve le farò vedere, che assumono il proprio corpo come opera d'arte. E il corpo viene mutato, viene trasformato sia con le tecnologie, attraverso il digitale, ma anche già da prima, no? Quello che si chiama body art, l'arte del corpo, già prima del digitale affermava questo aspetto del corpo come tessuto su cui comporre un'opera d'arte. Con il digitale, quindi non è casuale che siamo a metà degli anni 90, con il digitale molti artisti hanno cominciato a inserire all'interno del proprio corpo elementi digitali, per esempio un terzo braccio, no? Che terzo braccio aveva una sua autonomia relativa dagli altri due, anche che univa certi impulsi del cervello dell'artista. Oppure un altro artista che mi piaceva mostrarvi, un catalano, che si chiama Marcelino Antone Sroca, che faceva delle composizioni molto complesse rispetto al suo corpo, a un computer, e utilizzando il computer e cliccando sul suo corpo, che sta nel computer, sulla sua schermata, si interveniva direttamente sul proprio corpo, non si modificava, molto lo si coltivava, si creavano delle cose molto scaricate, molto dure. Insomma, una serie di Orlan, l'artista Orlan, è un altro di questi grandi artisti, che è Fluxus, una corrente importante degli anni 80, in cui la sua identità, l'identità di Orlan, si modificava sulla base di altre identità di donne. Magari sarà meglio che ne faccio, la faccio vedere adesso, ma nel caso di lei assumeva la testa delle donne inca che avevano, si deformavano il cranio e con il digitale si assimilava a queste donne inche. E quindi sì, insomma, il postumano è diventata una corrente espositiva in cui le differenze tra organico e inorganico, il corpo umano, tendevano a esaurirsi. Il postumano vuol dire che il dualismo su cui io insisterò molto, perché l'aspetto centrale della parte monografica, come sapete, sul feticismo, che è per eccellenza l'elemento che dissolve questo dualismo. Ecco, nell'arte molti artisti, utilizzando le tecnologie digitali, mescolavano ciò che normalmente era separato. Allora, al di là di quella che era l'umanità, il suo significato classico moderno, post-human, si affermava nuove identità, identità molto più mobili, in cui c'erano incroci da dimensioni animali, vegetali, che riprendono alcuni temi bensoniani naturalmente, che si trasferiscono nel campo dell'arte, venivano esposti in un modo totalmente inedito. E questo modo inedito implicava la presenza dell'artista. L'artista stava come un quadro, invece del quadro c'era l'artista. Questo artista, di fronte a persone che non sono più tanto spettatori, ma diventano, come dicevo prima, parte costitutiva dell'opera, produceva delle mutazioni. Allora, questo incapsularsi di digitale del corpo è stato chiamato post-umano. Quindi una cosa ben differente dal postmoderno, ben differente dal postmoderno. È una cosa ancora più legata alle tecnologie digitali, corpi, arte, che crea una nuova concezione dell'arte che si chiama dall'epoca installazione. Si chiamerà installazione. L'installazione quindi sarà questa nuova opera, ecco, per gioco la subita che avete visto l'installazione, è un tipo di opera che favorisce un'attività di tutti i soggetti, del classico spettatore, e che viene a modificarsi, è transitiva perché è relazionale. Questa è l'installazione. L'installazione in qualche modo c'è anche precedente, ma con il postumano diventa un tratto caratteristico delle nuove forme di composizione artistica. Quindi lei presenta questa distinzione perché, dicevo, se postmoderno attualmente è sempre meno utilizzato, postumano viceversa no. Postumano, facevo, mi ricordo, un seminario sul post-human qui in facoltà, mi pare proprio 5 anni fa, penso nessuno di voi c'era, però fu un bel seminario organizzato poi da giovani studenti, dottorandi, mi pare, dei dottorandi che volevano capire come funzionava questo meccanismo, per cui sono diversi docenti di discipline differenti, perché il post-human incrocia tutte le discipline, capite? Nel post-human l'architettura, il design, la musica, tutto è presente, l'antropologia, sono mescolate un po'. Quindi c'è questa spinta affascinante verso una transdisciplinarità. E qui arriviamo a Roma. Chi lo riconosce? Ecco. Veramente un capolavoro d'architettura, e in genere non si sa che dal lato opposto della facciata, quella che sta sulla Cristoforo Colombo, vi è un grande teatro all'aperto. In questo teatro all'aperto, che è stato utilizzato per tantissimi anni, recentemente avvengono, diciamo, delle performance, la più significativa delle quali si chiama Dissonanze, che spero qualcuno di voi abbia sentito parlare di Dissonanze. No, la Dissonanze, quindi, che non si chiama così, tra l'altro, perché l'organizzatore è stato un mio studente e ha applicato la dimensione della dissonanza a mettere insieme in uno spazio architettonico bellissimo ma bianco, perché di marmo travertino, quindi è uno scenario su cui proiettare tutto, si possono proiettare le immagini più complesse, se volete, cioè, diciamo, sì, video arte, per esempio, si proiettano là, e il nostro è con la musica. Cioè, dissonanze è anche una dissonanza rispetto a quello che è il contesto performativo attuale. Mescolare, mixare, DJizzare, come si dovrebbe dire, no? Immagini e musiche in uno scenario metropolitano che è temporaneo. Che lo diceva una notte, due notte e poi finisce. Questa è una cosa molto importante. Ebbene, insomma, per due o tre notti questo spazio si trasforma, diciamo, il luogo diventa uno spazio, un luogo che è fisso, identitario, si mobilita, veramente è estremamente gente, quindi adesso non so voi, ma perché oltre a questo spazio più sperimentale, all'interno c'è una grandissima sala dove si balla fino alla mattina presto, sta pieno di ragazzi, non solo, per cui penso che possa appartenere alla nostra esperienza. Bene, ecco, questo è un altro esempio di una metropoli, vedete come la relazione corpo-metropoli si trasforma, ecco, vedete anche un altro esempio, questi sono architetti viennesi, no. Questo è veramente il primo punto, guardate questa biblioteca in colore, guardate che potenza, che nello stesso tempo solida e poi duttile, quindi polida. Adesso ve le mostro semplicemente comunque. E questa è Venezia. Qual è Venezia, eh? Qual è Venezia, eh? Attenzione, potete riconoscerlo, eh? Che non siete... È Las Vegas. Però vedete che Las Vegas è, eh? Questo è un altro grande architetto contemporaneo, si chiama Gehry, un architetto che ha fatto il famoso Guggenheim a Bilbao. Vedete queste nuvole come sono dubbi, è impossibile creare questa nuova architettura veramente fluida, no? Veramente che dà il senso di questa nuova dimensione per la qualità. Questo è di nuovo Kapoor, questo è vale la pena raccontare, perché Kapoor, questo artista anglo-indiano, una cosa del genere stava anche a San Paolo del Brasile, quando mi stava a San Paolo, vi racconto brevemente, allora si entra dentro una sala e tutta bianca, come questa qua, tutta bianca. E voi non credete niente, ma io da lì non credo niente, perché il bianco acceca lo sguardo e io sono stato per qualche minuto. Dici, interessante, tutta bianca, ma stavo per andare, quando vedo a un certo punto si crea un buco, cioè una parete diventa buttata, cioè osservando, se, non solo osservando con attenzione, ma adeguando il mio sguardo a quel contesto, scoprivo che c'era, quando c'era un buco, in realtà c'era una cosa che cresceva lì fuori, come una parete gravida, no? Che ed era questo gioco percettivo che sviluppava questo tipo di composizione, anche questa installazione. E qui vedete il posto del genere, c'è un aspetto, chiamiamolo forato, solo che vedete qui un tipo di esperienza di un certo tipo. Io adesso perché vi racconto com'è, naturalmente stando dentro e girando voi percepite maggiormente questa. Io ho messo Beijing in piedi, le conoscete, penso avete visto, vedete come questo tipo di architettura che cambia sono pannelli sensibili alle luci, alla luce, che cambiano il colore a seconda di... Insomma, architecture, insomma, architettura deve bruciare. Adesso vi mostro. Qui vedete Tokyo, ecco, nel Giappone questo tipo di pannelli di schermate, no, che attraversano l'intero edificio è una cosa abbastanza costante nei vari, nei tanti centri di Tokyo, diciamo, no? Allora vedete come qui questo aspetto fluido e di transurbanesimo, diciamo, certamente Tokyo è una delle metropoli più significative di questa metropoli comunicazionale. Adesso vi presento questo architetto che si chiama Spoy Brock, Spoy Brock. Che è una piccola città olandese, ha creato quest'altro essere. Guardate quest'altro essere. Sembra un po' una medusa che cammina, un essere appunto che cammina e cambia colore in questa piccola città. Allora, questa architettura è veramente, sono molto significativa per tutto il discorso che vi sto facendo. Allora, questa architettura presenta le seguenti caratteristiche. Primo, è connessa con tutte più o meno le case, dei cittadini di questa piccola cittadina. E i cittadini, le persone, possono inviare un messaggio sulla base dello stato d'animo che stanno attraversando in quel momento. Per cui, per esempio, se hanno la rabbia, che so, o la passione, diciamo, se sono rosso, mettono il rosso, se hanno la rabbia, il verde, il blu, che sarà la disperazione, ma che ne so, il blu, che sono. Allora, se la maggioranza degli abitanti di questa cittadina mette, ha uno stato d'animo passionale, questa cosa, questo essere diventa rosso. Quindi è come se la sensibilità di un soggetto, il soggetto chi è? Il soggetto è il singolo soggetto, chiaramente. Poi il soggetto è questa architettura e il soggetto è anche la città. Sono tre soggettività che sono interconnesse da questo sistema di comunicazione digitale che trasforma l'identità. L'identità del soggetto, dell'architettura e della città non è fissa, come quella di tutti noi, lo spero. È un'identità più fluttuante che modifica i colori e non solo i colori che vediamo. Perché questo aspetto mobile, che dà la sensazione di una dissonanza in movimento, come appunto qualsiasi soggetto, ha dei sensori. È come se assorbisse i rumori che vengono dalla città. Ha dei sistemi computerizzati per cui si assorbono i rumori, vengono rielaborati in una logica interna, lo fa autonomamente questa rielaborazione, e vengono poi esposti come soundscape, come musica o come paesaggio sonoro. Quindi è anche un soggetto che fa musica, che è come se rimasticasse, rimescolasse, rimasticasse tutti i flussi urbani e li trasformasse in una nuova composizione musicale, nella sua autonomia. Quindi vedete, io vi ho messo, è un info interstizio, è come se fosse un interstizio informazionale che gioca con le identità sia sue che degli altri. Qui vi ho messo un'altra medusa, vi ho messo una bolla, molte architetture contemporanee hanno una plastica che si allarga, crea una bolla su cui proiettare immagini, poi svanisce. Oppure vedete quest'altra costruzione che è dello stesso Spagnolo. Vedete, questa architettura è un'architettura che dà un senso, una sfida al sistema tradizionale di percezione, no? Perché può essere una bocca, può essere qualsiasi cosa, una cosa da cui entrare, uscire, essere inghiottiti, espulsi. Insomma, l'interno e l'esterno vengono un po' rimescolati, così come vedo questa protuberanza, è una protuberanza fine a questa quindi capone. Come se appunto l'interno e l'esterno si mescolassero, non si capisce più che interno e che esterno. Qui sono tutta una serie di concetti connessi con delle icone, però adesso non le leggiamo perché diventano complicati, però magari possiamo parlare un'altra volta. Diciamo, molti sono concetti che già ho portato, però sono nel senso di questo effetto bellissimo. Ecco, questo è il concetto, insomma, che stava anche prima. Lavoro, territorio, famiglia, felicità, tra virgolette, sesso, classe, sono tratti culturali sempre meno identici al passato industrialista. E questo parte già per averlo accennato. Ma voi vivete in una fase in cui non farete più un lavoro fisso per tutta la vita. Questo sarà una dannazione. Ma sarà anche un grosso conflitto, e secondo me, guardate, su questo c'ho un'idea, diciamo sì, chiarissima, vi dispiace dirlo, ma il fatto che lo facciamo un lavoro fisso per tutta la vita, dobbiamo cercare di cogliere gli elementi positivi, creativi, mobili, mutanti. Certo, io vi posso assicurare che a me piacerebbe che ciascuno di voi transitasse da un lavoro all'altro con uno stipendio più o meno costante. Questo è un fatto per me, e non ci do su questo. Però veramente non fare lo stesso lavoro, io pure ho fatto diversi lavori prima di insegnare all'università, non venivo qua, ma sono stati diversi. E quindi anche per voi, che mi anch'io tantissimo, a me aver fatto un lavoro banale, un aeroporto, per tanti anni mi ha formato profondamente. Io non vedo che sia positivo difendere un posto di lavoro fisso a tutti i costi. Non lo vedo in termini positivi, mi sembra difendere molto minore intensità o del vuoto. Allora il problema è come entrare dentro questa transizione del lavoro. Perché non c'è niente da fare, dobbiamo vedere come può essere un arricchimento per ciascuno essere mobile sul lavoro e non come una povertà, non come una debolezza. E questa è una grande sfida. Forse è una delle più grandi sfide in cui voi vi troverete di fronte, voi che permettono di avere più la pensione, cosa? Già chi sta sui 30-35 anni e che lavora non ha più la pensione appartiene a chi come me siete, ma voi avete la pensione di cosa? Che ci avete in futuro? Dipende da altre cose. Lo stesso del territorio, questo già l'avevo accennato, il territorio della Roma, la prima immagine che vi ho messo, i territori si mescolano. Cioè rimanere fermi nel territorio, il fatto che molti di voi non siano mai andati a Londra, e neanche alla Svezia, ma non siano andati a Londra, è gravissimo, lo dico con tutta sincerità. Assumete il movimento nei territori come un tratto costitutivo della vostra formazione. Cioè l'università, la formazione, non sta solamente qua dentro, la formazione nostra sta anche fuori dell'università. E il fuori più bello che vi possa capitare è quello del viaggio. Quindi viaggiare il più possibile, attraversate più territori possibili, vi fa bene, è la migliore medicina, e comunque in quel momento entrare nell'etnografia. Lo stesso la famiglia lo accennava anche all'inizio, qui anche dal piccolo di una volta, qui è cambiato totalmente, nonostante che alcune forze politiche, religiose, cercano di dire a chi va nella famiglia, insomma, la famiglia è sempre uguale, non cambia, non c'è niente da fare, sta cambiando profondamente, è inarrestabile questa trasformazione della famiglia. non solamente rispetto ai figli, ma anche rispetto proprio al rapporto d'amore che si genera tra persone. E questo rapporto d'amore non è più basato sulla dimensione del sesso, perché, come si dice, se i sessi sono due, i generi sono infiniti. Gli studi di genere, che si sono affermati da tempo nelle scienze sociali, dicono appunto che il sesso non è maschio-femmina, nel senso biologico, ma i sessi sono una costruzione culturale, sociale, con tante differenze. D'altronde, che sono tutti sanno nelle zone di incrocio tra il maschile e il femminile, e che comunque, anziché affrontare le questioni sessuali dal punto di vista del sesso e biologico, quindi sono due, le ricerche contemporanee si basano su il sesso è più interessante e intelligente vederlo come genere, e il genere è una costruzione culturale, sociologica, anche ideologica, più culturale. In questo senso, se biologicamente sono due, dal punto di vista del genere, i sessi sono infiniti. E quindi una famiglia contemporanea, nonostante, può essere data da tanti tipi di generi. Non è detto che debba essere costantemente sempre solo, nel senso che noi siamo stati abituati in passato, che erano un uomo e una donna nel suo significato classico tradizionale. E le famiglie stanno cambiando, e quindi l'antropologia sta dentro con attenzione e anche con affetto a questo processo di trasformazione. L'elettricità, già ne ho parlato, quindi è inutile che lo ripeto, adesso lo uso solo per prendere la virgolette, ma sesso pure, anche le questioni di classe, le classi sociali erano chiarissime nella industria. No? Il conflitto di classe era il conflitto della modernità, era il conflitto della città, dell'industria, della fabbrica, della realtà. Tutto si muoveva perché c'era conflitto di classe. Ora questo conflitto di classe, in parte continua, ma è uno dei conflitti, non riassume più l'impero umanità. Questa è la visione, diciamo, del marxismo, in parte anche di Marx, se la dico. Anche per Marx il conflitto di classe aveva come sua ambizione risolvere i conflitti dell'intera umanità, non proletariato, liberando se stesso, diciamo Marx, liberando l'intera umanità. Questa è una grande narrazione, nel senso di lottare, la grande narrazione è che il proletariato vuole liberare l'intera umanità. Ecco, questo aspetto di una liberazione dell'intera umanità grazie alla classe è quasi in crisi. Sono tratti culturali che non sono più identici all'era industriale. Questa è la base di una riflessione. E assumono queste caratteristiche più mobili, dislocanti, perturbanti, ambigue, a volte viene di sofferenza, perché certamente a volte attraversare più identità, essere costretti alle più identità nel campo del lavoro, dell'amore, o nel sistema produttivo può essere molto doloroso, ma questa ambiguità, questa perturbazione, questa dislocazione è parte dell'identità contemporanea. Uso per mettere in ancora. Ecco, decade il concetto di società, si espande la comunicazione, non è messo un tipo di pubblicità particolarmente vicina. E questa una piccola composizione su quello di fare che poi ne parlo dopo, però ve la vorrei parlare subito. Qui vedete quello, vedete, questo è affine alla Tech Modern, la vedete che è affine alla Tech Modern, la vedete, si vede bene, dopo la faccio vedere più grande. Questa è una fabbrica, siamo sempre in Inghilterra, non solo nella rivoluzione industriale, ma anche in quella che chiamiamo la post-industriale, che significa. Bene, i primi, di questo non ve l'ho detto, vi aggiungo quindi un elemento a quanto vi ho detto adesso. I primi soggetti che hanno capito che la fabbrica era morta sono stati un gruppo musicale britannico, post-punk, che si chiama Tropic Thistle, che spero qualcuno di voi conosca, e che hanno fatto vedere questo tipo di flyer in cui la fabbrica è la fabbrica classica, che probabilmente è la stessa fabbrica, diciamo, non so che la dire, però a me piace pensare che sia la Tate Modern quando era ancora fabbrica dell'elettricità e che non mi dovete citare. La fabbrica dell'elettricità, quando è stata dismessa, perché le fabbriche dismesse sono quelle in cui non c'è più produzione industriale, e per un periodo rimangono dismesse, si dice, per termine tecnico, dismesse, cioè non c'è più lavoro, non c'è produzione e non c'è più nient'altro. Allora, a me piace pensare che questa sia la fabbrica di energia elettrica dismessa prima che qualche persona particolarmente intelligente abbia pensato di trasformarla in Tate, Tate Modern, che c'è anche la Tate classica. Prima di questo, un gruppo musicale che si è andato in crisi hanno capito tutto. Allora, la mia domanda è la domanda che faccio anche a voi: sarà che alcuni gruppi musicali hanno la capacità di anticipare dei processi culturali, comunicazionali, sensoriali, prima dei sociologi, degli antropologi, dei politologi, e che non vengono riconosciuti come tali? Cioè, se quando voi studiate corsi industriali, avete studiato anche nei corsi industriali, avete fatto la sociologia, avete fatto studiare corsi industriali con De Masi, non lo so, avete fatto l'esame De Masi? Nessuno? Solo voi? Ma insomma, il corsi industriale nemmeno avete studiato, no? Non è possibile. Non so di che avete studiato il primo anno, se dicevo che non stai, non è di primo anno, a sociologia non avete studiato il posto industriale? Non avete studiato. Mi dispiace. Allora, il posto industriale è che è più sempre le vostre, perché c'è l'industria e non c'è più l'industria. Allora mi sente. Solo che il posto industriale, che è stato studiato da diversi sociologi, prima di loro l'hanno capito di proprio ingresso. Questo è il fatto. E hanno fatto la musica dalla fabbrica morta. La fabbrica è morta. E allora io aspetta di siamo. Qui vedete l'immagine più grande, che sarebbe interessante capire se effettivamente se qualcuno può fare questo computer a casa, diciamo, se questa immagine è quella della centrale elettrica che diventerà T-Modem. Però vedete qui che mettiamo questa parte, loro diventano, sono musicisti che utilizzano come strumenti musicali non solo gli strumenti musicali classici, ma quelli industriali, che ormai non servono più, vedete qui c'è una domenica, un'ascia, una vita, eccetera. Questi strumenti vengono manipolati, siamo ancora in era analogica, ma tra l'altro, non è era digitale, ancora in era analogica, vengono trasformati e usati come se fossero strumenti musicali. Allora capite che una musica, la musica industria, nasce la musica industria, nasce quando non c'è più l'industria. Non so se vi è chiaro questa cosa, è una cosa straordinaria. La musica è industria, ma l'industria non c'è più. O lo dico meglio, la musica industria nasce solo quando è morta l'era industriale, anzi è il canto, è il suono della morte dell'era industriale. Allora, io già mi dispiace che voi non studiate a livello della sociologia il fatto dei sociologi, ma a me l'università che a me piacerebbe sarebbe quella in cui si insegnasse anche musica o antropologia della musica o suono, mi piace più il suono, diciamo così, in cui la transizione che stiamo noi vivendo nella comunicazione in gran parte è fatta da musicisti cui non viene riconosciuto il valore di stare trasformando la nostra sensibilità. Io già in passato vi ho parlato dell'importanza della musica. Ecco, adesso per un esempio specifico, ci sono da un progresso proprio per. Ci sono anche i Manzoni, che spero che conosciate, se non avete mai ascoltato un concerto dei Manzoni, che mi dispiace veramente tanto, perché spesso loro vengono a Roma, diverse volte sono venuti a Roma, e il loro tipo di paesaggio sonoro è veramente un paesaggio di una forza dissolutiva, dissonante, fortissima. Quindi è stata un'esperienza di trasformazione, questa che non so se sapete, loro si chiamano Panasonic, poi indovinate perché hanno dovuto cambiare il nome, perché la Panasonic mi hanno fatto causa e loro hanno tolto una. Togliendo una è ancora meglio, spesso la censura è proprio idiota, perché Panasonic secondo me esplicita in un modo ancora più forte il fatto che tutto è suono. Tutto è suono, no? Quindi non è che tutto è musica, so per capire. Tutto è suono, il suono include la musica, il suono include il rumore, il suono include il silenzio. Silenzio, musica e rumore vengono sussunti dal suono, diciamo così, il suono è un transito da questi tre livelli. Sapete, c'è quel musicista che viene considerato da qualcuno, conservatore John Cage, che faceva il concerto musicale di 4.13 in cui si stava tutti zitti, si stava in silenzio, non c'era nulla, c'era silenzio, e per 4 minuti e 3 o 20 secondi, adesso lo ricordo, il silenzio si scopre che non esiste tra l'altro, perché in quella composizione musicale le persone iniziano a ascoltare il respiro, le ambulanze, lo starnuto, la persona che dice uno scandalo, mi date dei soldi, che è questo schifo, e via dicendo. Quindi l'ascolto del silenzio non è mai un ascolto silenzioso, questo era uno dei grandi paradossi di John Cage, un grande musicista. Questo aspetto che i canzoni che suonano la fisicità del suono, non so se cogliete l'importanza dell'aspetto fisico del suono, la fisicità del suono, e la fisicità del suono è un suono panico, panico nel senso doppio, panico sia che appunto tutto è suono, ma anche panico perché diciamo, c'è un senso di panico. Il panico non c'è stato, è una parola ambigua che dà paura, terrore, panico, ma anche dà un senso di perdere la propria individualità e essere coinvolti in qualcosa di più generale. Questo è il panico, io non sono più individuo, divento tutto, se io divento tutto non è casino. Allora, questi musicisti danno questo ritmo, dissonanze, io direi proprio graffiante, di questa fisicità del rumore, del suono, questo soundscape, che a me pare giusto chiamare un extasismo dell'egos, cioè pluralizzare la parola egos, latina ego, ma anche in inglese ego, egos. L'extasismo nel senso appunto che si produce un battito altro, non è il battito cardiaco classico che produce un certo tipo di musica, è un battito, un pulsare extrasistolico, diciamo così, che dà questo grappolo di egos, un grappolo di egos accanto a questo graffiare musicale e anche di immagini, perché i panzoni che sono così, allora ci sono questi flussi musicali e c'è uno schermo come questo, grosso modo, tutto bianco, e il suono emette un buco. Allora, se il suono che è emesso è di un certo tipo, il buco è il buco. Non è un buco, scusate, è un'asticella nera. Allora, quanto più il suono diventa violento, pulsare, questo buco, se cioè si piega, no? E quasi sparisce. Per cui anche questa è una cosa interessante, questo collegamento tra una dimensione immagine visuale che è legata alle variazioni soniche che producono appunto allo stesso tempo un ascoltare e un vedere percettivo. Insomma, per questo c'è questa immagine proiettiva che nasce direttamente dalla musica, non nasce da. Però questo è, diciamo, se l'introduzione che vi ho dato alla metropoli comunicazionale e che è secondo me la premessa per entrare dentro il tema specifico, una domanda che ho subito la parola, così che è il principio mensuale, cioè non una domanda. Thank you.